tutti quei fantasmi. Ancora tutti quei fantasmi. 2 AM, guardo in faccia le mie insicurezze, scappo da quel sogno ricorrente, sto manifestando il mio presente. Mondo cane, tu così incosciente, sbagli di una vita sulla pelle, come posso dirti che è per sempre?